2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati o benvenuti a 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter. Basta cercare nel motore di ricerca all'interno di Facebook o Twitter Enrico Pagliarini oppure 2024. Iniziamo con alcune notizie in breve della settimana, devo dire poche questa settimana perché alcune delle notizie più importanti fanno parte dei nostri approfondimenti. Iniziamo con le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dal mercato italiano dei videogiochi che ha chiuso il 2015 con un giro d'affari di quasi 1 miliardo di euro, in crescita del 6,9% rispetto al 2014, riavvicinandosi ai livelli del 2009. Era stato toccato 1,1 miliardi. Sono state vendute nel corso dello scorso anno 1 milione di console tra fisse e portatili. E per quanto riguarda i titoli, il gioco più venduto in Italia nel 2015 è stato ancora una volta FIFA 2016, quindi la serie FIFA, seguito da Call of Duty e Minecraft. Secondo ASV, che è l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco in Italia, fra utenti abituali e occasionali sono più di 25 milioni gli italiani che videogiocano. Digital News. Allora, se comprare un biglietto sui sistemi di prenotazione online oppure le app di Trenitalia o Italo non vi soddisfa, da pochi giorni è attiva anche in Italia la francese Captain Train, il capitano del treno, Captain Train, che permette di fare confronti sull'offerta tariffaria ferroviaria in Italia e anche in molti altri paesi d'Europa, una ventina di paesi, e permette naturalmente anche di comprare il biglietto. Digital News. Parliamo di un'acquisizione importante che è stata annunciata questa settimana. Intel ha acquisito il 100% di Yogitech, una società toscana specializzata nella tecnologia per la sicurezza in ambito automotive, automazione industriale, settore ferroviario e medicale. La società andrà ad integrare l'offerta Internet of Things di Intel. Dunque, finalmente Enel ha presentato ufficialmente a Roma il proprio piano per la posa della fibra ottica in 224 città. Si partirà già nelle prossime settimane a Perugia, Bari, Cagliari, Catania e Venezia. Addirittura c'è chi ha detto che a Perugia potrebbero essere già attivati i primi abbonamenti nel mese di maggio. Mi sembra un po' presto, però vedremo. Seguiranno a breve, cioè in autunno, Firenze, Genova, Napoli, Padova e Palermo. Poi tutte le altre città di questo piano. Ricordiamo che il piano sostanzialmente è fortemente ispirato dal governo. Questa è una società a partecipazione pubblica, seppur una società privata quotata in borsa, che deve poi far tornare i conti, e tutto parte dal progetto di sostituzione dei contatori. Sono milioni i contatori che dovranno essere sostituiti nei prossimi anni, e si è detto nel momento in cui vengono sostituiti i contatori si fa anche la tratta in fibra ottica fino al contatore, e quella fibra ottica viene messa a disposizione degli operatori di telecomunicazione. L'obiettivo fondamentale è superare l'attuale situazione di mercato, creando un soggetto molto importante e che abbia una rete molto estesa che possa creare un mercato competitivo. Infatti Enel non farà concorrenza agli operatori di telecomunicazioni, ma sarà un operatore neutrale, metterà a disposizione questa fibra ottica con un'infrastruttura ottima, cioè fiber to the home, quindi fino all'appartamento. Poi bisognerà capire, ma questo lo scopriremo nelle prossime settimane, direi, che cosa succede dal contatore all'appartamento, perché non sempre il contatore è nell'appartamento, quel pezzetto, anche se effettivamente è un pezzetto piuttosto breve. Sentiamo che cosa ha detto in fase di presentazione Francesco Starace, che è l'amministratore delegato di Enel. Cosa faremo? Semplicemente poseremo i cavi. Li porteremo fino alle case degli italiani, alle aziende degli italiani e alle fabbriche. Lo faremo gestendo e facendo poi la manutenzione di questa infrastruttura. Non ci porremo come un operatore telefonico, anzi la nostra intenzione è di mettere questa capacità di trasmissione di banda a disposizione degli operatori e conseguentemente senza di loro tutto questo sarebbe impossibile. Quindi abbiamo cominciato a dialogare con tutti gli operatori telefonici di telecomunicazione che abbiamo in Italia, quelli con cui abbiamo cominciato più velocemente un confronto che è stato duro, serio, professionale, ma molto costruttivo sempre, sono Vodafone e Wind, i cui amministratori delegati sono qua. Abbiamo con loro trovato un'intesa importante che ci porta quindi a poter fare un discorso molto concreto su 224 città. Questo numero non ha nulla di cabalistico, non ha niente di straordinario, è semplicemente l'elenco di città che hanno determinati requisiti all'interno delle aree A e B che sono serviti dalle reti Enel. Quindi dico subito, siamo in una di queste città? No, Roma non è nelle 224 perché la rete di Roma non è dell'Enel. Cosa faremo? Daremo ai nostri colleghi delle telecomunicazioni l'accesso alla fibra a determinate condizioni commercialmente definite. Questo non significa che poi non potremo darla a tutti gli altri operatori che vorranno fare uso di questa infrastruttura una volta che questa è costruita. Quindi è una infrastruttura aperta e non esclusiva. Tra le altre cose che dovranno essere capite e comprese nei prossimi mesi, oltre a quello che succederà in generale al mercato, se ci sarà un accordo anche con Telecom Italia che potrebbe utilizzare, anzi probabilmente sarà utile per la stessa Telecom questa nuova rete in fibra ottica, che cosa succederà anche con MetroWeb, che è un importante player neutrale nel mercato della fibra ottica, e molto probabilmente ci sarà un accordo tra Enel, o meglio la società di Enel che si occupa della posa della fibra ottica, che si chiama Enel Open Fiber, e la parola open è molto importante, avete sentito le parole di Francesco Starace, che questo è un progetto aperto a tutti gli operatori. Tra le altre cose che dovranno essere comprese è cosa succederà in quelle città o in quelle zone dove la rete di distribuzione è di proprietà di altri operatori e non è di Enel. È stata citata Roma, dove c'è Acea, ma pensiamo anche ad A2A, che è molto forte nel nord Italia, così come era in Emilia-Romagna. Insomma, in quelle zone bisognerà trovare una quadra, però l'importante è partire, e questo è sicuramente molto, molto importante. Altro tassello, perché qui stiamo parlando di 224 città e sono poche, parliamo di 8.000 comuni in tutta Italia, figuriamoci, 224 città è quasi nulla, anche se parliamo di città, quindi una fascia, una fetta della popolazione molto importante. Però dicevo, questo è un primo tassello. Enel dovrebbe partecipare anche alle gare per posare fibra ottica nelle zone cosiddette a fallimento di mercato, cioè dove i soldi li mette lo Stato. E qui c'è una notizia della settimana importante: i primi bandi dovrebbero essere pubblicati il 29 aprile, quindi avremo occasione poi di riparlare di questo grande progetto per la posa della fibra ottica in Italia anche in questa occasione. C'è un'altra cosa molto importante che ha detto Starace e la vorrei sottolineare, perché molto spesso si dice vabbè, ma 10, 20, 30 megabit sono sufficienti per le case, ma fondamentalmente la cosa importante non sono le case degli italiani, seppur logicamente molto molto importanti, ma dobbiamo pensare che questa infrastruttura sia fondamentale per i prossimi anni, ma già oggi, ma sempre più per i prossimi anni, per le aziende. Di gran lunga noi crediamo che l'applicazione principale per la banda larga sia quella per l'economia, quindi le industrie, le aziende, gli uffici, il business. Chiaramente poi i privati faranno in casa loro quello che verranno, giochi, video, quello che gli pare, però il grosso per noi del cambio fondamentale è l'industria 4.0 e quello che significa poter trasferire dati a velocità estrema tra aziende, all'interno di aziende dislocate in diverse località, e finalmente lavorare in, come si dice, virtualmente. Adesso parliamo di WhatsApp, la più diffusa applicazione, anche la più famosa, nota applicazione di messaggistica in tempo reale, Instant Messaging, che però non fa solo messaggi, si possono fare tante altre cose, anche chiamate vocali. Allora, WhatsApp ha introdotto questa settimana la cifratura su tutti i messaggi e appunto le chiamate audio. WhatsApp non è la prima applicazione a introdurre questa tecnologia, ci sono applicazioni gratuite o anche a pagamento che da tempo usano questo tipo di protezione, la crittografia per le comunicazioni, ma è indubbio che avendo WhatsApp 1 miliardo di utenti nel mondo e circa, diciamo, tra i 20 e i 25 milioni in Italia, questo avrà un impatto molto importante. Di questo abbiamo parlato con Matteo Flora, che è un esperto di cyber security ed è anche fondatore di The Fool, una società che si occupa, tra le altre cose, anche di sicurezza. Allora, innanzitutto sono crittografate end to end, punto a punto, cioè vengono crittografate sul cellulare di chi invia solo per il destinatario e vengono decifrate sul cellulare del destinatario. Questo significa che chiunque si metta in mezzo e faccia quell'attacco che viene chiamato normalmente man in the middle, l'uomo in mezzo che sniffa quello che passa, che controlla quello che passa, ascolta o legge o tenta. Gli americani usano il termine sniff come se annusasse quello che passa, non è in grado di intercettare. Questo ha una serie di utilità per l'utente finale, cioè il fatto che i messaggi sono sicuri perché sono cifrati dalla partenza al destinatario, e una serie di vantaggi per la piattaforma. Cioè la piattaforma stessa, anche in presenza di un ordine di qualcuno che lo obblighi a svelare che cosa mantiene nei suoi server, non può fare nient'altro che svelare un contenuto cifrato. Poi su questo ci torniamo, però ti vorrei fare una domanda sulla possibilità che ci sia il man in the middle, cioè l'uomo nel mezzo, cioè quello che tenta di intercettare le nostre comunicazioni. Ma è così frequente che hacker o qualsiasi altra entità tenti di intercettare e ascoltare quello che viene detto o su WhatsApp? Poi naturalmente noi adesso stiamo parlando di WhatsApp, ma questi discorsi valgono in generale per tutte le piattaforme che o già stanno utilizzando, perché ad esempio per quanto riguarda Apple sappiamo che iMessage utilizza crittografia end-to-end, o altre piattaforme che la utilizzeranno. Ma è così frequente? Beh sì, è discretamente frequente sia in caso di indagini, ma molto più spesso in caso di ascoltatori che sono stato paese, quindi all'interno di un'intera nazione, che tutte le comunicazioni siano soggette a intercettazione non è così improbabile, soprattutto in paesi, come amiamo dire quando sono qui da te in puntata, diversamente democratici. Cioè delle dittature. Dittatura è sempre una connotazione che qualcuno dà. Sì, paesi in cui la democrazia non è proprio il massimo della vita. Nella realtà la crittografia end-to-end in questo caso è tra l'altro una crittografia conosciuta, con una libreria conosciuta che è la stessa che usa Signal, che è l'applicazione divenuta famosa proprio per la sicurezza delle comunicazioni. Peraltro, nota di colore, uno degli sviluppatori del core team di Signal è il ragazzo che è ritornato in cronaca per il fatto di lavorare tutta questa estate in Apple dopo la richiesta dell'FBI di decifrare l'iPhone di San Bernardino. Molto semplicemente, da adesso chi utilizza WhatsApp per ad esempio telefonare, se io te ci telefoniamo, questa telefonata è schermata, cioè non è intercettabile nemmeno dalla magistratura italiana. Per adesso no, end to end significa che la magistratura per intercettare in questo momento deve usare un Trojan, quindi deve usare un qualche programmismo sul computer o sul terminale, in questo caso il cellulare spesso e volentieri, del mittente o del ricevente. Tra l'altro è anche discretamente schermato, cioè se cambia la chiave, cioè anche solo se il mio contatto cambia cellulare e quindi quella chiave non è più disponibile, WhatsApp informa dicendo attenzione, qualcosa non mi torna. Addirittura è possibile controllare la chiave e scambiarla con quel meccanismo strano che forse hai visto nelle schermate di presentazione, con un QR code dove io e te ci incontriamo da qualche parte, tu scambi con me la chiave, confermiamo che le chiavi sono le nostre e qualunque tipo di alterazione di questa chiave mi viene segnalato. Da lì in poi io posso chiederti: ascolta Enrico, hai cambiato cellulare, hai fatto qualcosa, o c'è qualcun altro che sta tentando di impersonare te stesso? Quando parliamo di Trojan, citato poco fa da Matteo Flora, parliamo di un programma che viene installato sul telefono da spiare, proprio per bypassare la cifratura, un telefono da controllare. Allora, si chiamano software di intrusione e sorveglianza, sono in grado di registrare tutto quello che accade sul telefono preso di mira e permettono a chi controlla quel software di prendere letteralmente il controllo di quello smartphone, di quel telefono. Stiamo parlando però di prodotti sofisticati e considerati come un'arma, con tutte le limitazioni del caso. È lo stesso tipo di software che produce Hacking Team, di cui si è parlato molto lo scorso anno, ma si è riparlato anche questa settimana. Perché? Allora, secondo quanto ha riportato il Fatto Quotidiano, Hacking Team aveva ottenuto il 3 aprile 2015 un via libera alla commercializzazione in tutto il mondo di questo famoso software per spiare, per controllare gli smartphone di persone che sono ritenute importanti come obiettivo da servizi segreti o anche da altre autorità. Questo software si chiama Remote Control System Galileo, è un software che consente appunto di spiare a distanza PC e smartphone. Ma che cosa scrive il Fatto Quotidiano della notizia di questa settimana? Il 31 marzo la Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico e che dà l'autorizzazione alla vendita di questi sistemi, che hanno una duplice applicazione sia civile che militare, quindi sono considerate armi, ha deciso di revocare l'autorizzazione globale concessa a questa azienda, che dovrà ottenere d'ora in poi il permesso caso per vendere questo software ad una lista di 46 paesi, e fra questi paesi c'è anche l'Egitto. Quindi immaginiamo che tutto quello che sta succedendo a proposito di relazioni tra l'Italia e l'Egitto, e anche il caso di Giulio Regeni, sia uno dei motivi, se non l'unico motivo, di questa revoca dell'autorizzazione ad Hacking Team. Questa è una parentesi un po' lunga che ho fatto per parlare dei Trojan, che sicuramente sono un'alternativa all'intercettazione telefonica, ma se viene utilizzata la cifratura, la crittografia, quindi non è possibile ascoltare la comunicazione, bisogna infilarsi prima che parta la comunicazione. Se io metto appunto questo softwareino spia all'interno di uno smartphone, posso capire e sentire anche la voce o leggere i messaggi prima che vengano cifrati dal telefono. Sentiamo ancora Matteo Flora. È sempre il solito problema. Sì, è un problema. In questo momento non abbiamo alcun tipo di evidenza, per ora, che nessun sistema crittografico si sia sempre interposto a delle indagini. Le indagini si basano su tante varie cose, e anche nel caso del terrorismo la pratica che noi osserviamo è che quando ci sono problemi nel trovare i terroristi è un problema di intelligence. Guarda cosa è successo adesso negli ultimi attentati, dove gli attentatori erano conosciuti da più stati, erano a 1,5 km da dove hanno fatto l'attentato, eppure il problema è dove è fallita l'intelligence. Certo, è sempre un compromesso. Bisogna ricordare, come sempre forse facciamo, cosa diceva Benjamin Franklin: chi è disposto a sacrificare la sua libertà per briciole di momentanea sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza, e le perderà entrambe. Senti, la cifratura o la crittografia che viene utilizzata, ad esempio nel caso specifico in WhatsApp, si può bucare? Cioè, se io sono la National Security Agency, riesco in realtà a sentire o a leggere i messaggi? Beh, la crittografia è piuttosto forte. Diciamo che è attualmente lo stato dell'arte che verrebbe utilizzato per comunicazioni anche militari. Fino a che i computer quantici non diventano realtà e vengono applicati davvero, possiamo essere abbastanza convinti che la decifratura, almeno massiva, cioè di tutte le persone che lo usano, sia al di là delle possibilità dell'intelligence. è sempre possibile che davvero con un'ingente quantità di denaro si possa pensare di rompere questo tipo di cifratura, ma ancora una volta questo non è un problema. Il fatto di dover dedicare centinaia di migliaia di euro per rompere la cifratura di una singola comunicazione rende la comunicazione discretamente sicura per me, per te e per la casalinga di Voghera. Certo, tu ti aspetti che questo tipo di soluzione venga adottata anche da altri sistemi o addirittura da tutti gli operatori di telefonia mobile di default, su tutte le telefonate? La telefonia mobile è sempre un problema, perché la telefonia mobile deve garantire quelle che vengono definite prestazioni obbligatorie, cioè l'intercettazione della comunicazione. È più facile che lo faccia un ente terzo che usa un canale di comunicazione, quello del 3G, del 4G o comunque della rete internet, per andare a invece creare un canale di comunicazione su cui può fare determinati tipi di altre operazioni. Tipo WhatsApp, tipo Facebook Messenger, tipo Viber, tipo Telegram, tipo Signal. Da questo punto di vista io mi aspetto che la crittografia diventi a brevissimo, cioè nello spazio davvero di qualche mese, la configurazione standard di tutti questi servizi, ma non solo per una volontà di proteggere gli utenti, ma anche per una volontà di proteggere la piattaforma stessa. Non esiste migliore scusante per dire non ti posso dare i dati che non davvero non avere la disponibilità di quei dati in modo decifrato. E possiamo aspettarci che in qualche paese democratico, perché su quelli non democratici ovviamente la possibilità è più alta, però possiamo aspettarci che si vada verso un divieto dell'utilizzo di crittografia, che non so se è tecnicamente possibile. I governi sono abbastanza deficienti da poter lanciare questa possibilità. Ricordiamoci sempre, come sempre dico, un concetto di base: uccidere le persone è vietato dalla legge. Cioè, attualmente, strano ma vero, gli atti di terrorismo sono reato. Questo non impedisce il fatto di essere terroristi. L'unico motivo, svantaggio nel proibire la crittografia è quello di evitare che l'utente comune usi la crittografia, perché al terrorista di turno o al criminale di turno basterà semplicemente utilizzare un software non legale per attivare la cifratura. Ancora una volta, il fatto di proibire la cifratura porta a un unico risultato: il fatto che la cifratura la userebbero solo i criminali. Come dicevamo poco fa, ci sono altre soluzioni, sia gratuite che a pagamento, per proteggere le proprie comunicazioni, per utilizzare la crittografia per proteggere le proprie comunicazioni. Molte soluzioni gratuite, anche molto facili da installare. Una l'ha citata Matteo Flora poco fa, cioè Signal, ma pensiamo, che ne so, a Telegram. Telegram ha anche la possibilità di fare comunicazioni cifrate, anzi è diventata famosa per questo. È una cosa che bisogna attivare, quindi non è di default come sarà, come è adesso WhatsApp. Ci sono anche molte soluzioni a pagamento, e uno potrebbe domandarsi: ma come, se esistono quelle gratuite, a che cosa servono quelle a pagamento? Ad esempio, in Italia siamo molto bravi in questo campo, nella cyber security siamo molto bravi, e ci sono molti operatori del settore che propongono queste soluzioni un po' in tutto il mondo. Private Wave, ad esempio, è una società che produce un sistema di protezione per le aziende in modo particolare. In questo caso la soluzione si installa sul server aziendale e dà quindi fornisce all'azienda un pieno controllo della protezione delle comunicazioni. Di questo ho parlato con Marco Pozzato, che è il CTO, quindi il responsabile della tecnologia di Private Wave. Il vantaggio è quello di proteggere le proprie comunicazioni. Io ho azienda, ho know-how, segreti industriali che potrebbero essere intercettati abusivamente con cifre estremamente economiche, perché oggi con un apparato da 10 euro e un PC sufficientemente carrozzato e configurato si può fare un'intercettazione abusiva di una telefonata GSM. Ah sì? Assolutamente sì. con varie modalità, però si può fare. Allora è importante che io le mie comunicazioni le protegga, perché a me sono costate molti soldi e molto tempo. A questo punto sono curioso, anche se abbiamo una pausa, vorrei sapere come funziona questo sistema, come si fa, anche se è illegale intercettare nel modo che tu ci hai ricordato, come si fa? Ne parliamo tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. Riprendiamo questa puntata, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it, quindi 2024 e radio24.it. Vi consiglio come sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questa modalità avete la possibilità di ascoltare quando volete, settimana dopo settimana, in maniera molto facile, molto semplice e divertente, la nostra puntata sul vostro smartphone o anche attraverso altri sistemi. Anche questa settimana abbiamo tutte le nostre interviste fatte con microfoni, quindi nessuna via telefono. Speriamo apprezziate il nostro sforzo produttivo. Stiamo parlando di sicurezza, di security e di crittografia per proteggere le nostre comunicazioni. Ne stiamo parlando fino a poco fa con Matteo Flora, adesso c'è Marco Pozzato con noi. Marco, tu hai accennato ad un sistema che può essere utilizzato anche spendendo molto poco per intercettare, per ascoltare abusivamente le comunicazioni. Ci spieghi come funziona? Siamo nella società delle informazioni, le informazioni hanno valore e soprattutto a seconda poi dei casi delle aziende possono avere valori estremamente elevati. Fare un'intercettazione costa estremamente poco, quindi diventa conveniente rubare le informazioni in questo modo. Sì, e come si fa? Allora, come si fa? Si prende telefoni modificati, chiavette che comunque comunicano sulla rete GSM. La rete GSM con la tecnologia 2G è una rete la cui cifratura è debole ed è stato dimostrato già da anni che è possibile, ascoltando la radiofrequenza, decifrare poi quella telefonata che era cifrata. Le reti invece 3G e 4G di nuova generazione sono sufficientemente protette, ma se io mi metto nei pressi della persona che voglio ascoltare, disturbando le frequenze del 3G e del 4G, il telefono torna a comunicare in 2G, dove posso ascoltarlo. Perfetto, io lo sposto, cioè lo induco ad andare sul 2G e lì poi sniffo. Assolutamente. Mi viene da dire fantastico, ma anche preoccupante questa cosa. Certamente. Qualche anno fa non c'era la sensibilità del mercato di massa, per cui quando andavamo dai nostri clienti la prima domanda era: ah, ma perché si può fare? Io posso intercettarmi e io posso proteggermi? E subito dopo la domanda era: ma è legale? Oggi tutti quanti sappiamo che è possibile proteggersi, sappiamo che le reti di comunicazione sono vulnerabili così come sono e che è possibile proteggersi. Ed è legale. Ed è assolutamente legale. Certo, ecco, a tal proposito, la Costituzione garantisce l'inviolabilità del mio domicilio, ovviamente anche digitale, e delle mie comunicazioni, posto che ci sono delle deroghe regolate. Certo. Quello che io proteggo con il vostro sistema sono solo le telefonate o anche tutti i dati che transitano? Noi proteggiamo le telefonate e i messaggi. I messaggi. Anche se io spedisco un file? Assolutamente, sì. Sì, quindi anche tutte le comunicazioni. Sì, tutta la comunicazione che avviene, certo. Sì. Abbiamo detto che la protezione, la comunicazione end-to-end non è intercettabile, nemmeno dalla magistratura, giusto? Non è intercettabile dalla magistratura. Cifratura end-to-end significa che il dato esce cifrato dal mio telefono, non importa quale rete attraversi, se è protetta o meno, arriva cifrato sull'altro terminale dove viene decifrato. Se utilizzo il prodotto end-to-end sono solo i due utenti che hanno le chiavi, l'azienda non ce le ha. E che tipo di informazioni posso sapere se non riesco a fare l'intercettazione? Ovviamente in una infrastruttura di comunicazione, esattamente come con WhatsApp, ci sono i metadati, cioè chi comunica con chi. Queste sono informazioni necessarie per far funzionare la comunicazione. Queste informazioni sono conosciute da chi gestisce l'infrastruttura. Chi gestisce l'infrastruttura può decidere se conservarle, perché da qui si possono rilevare informazioni molto interessanti. Tipo? Perché questo è interessante. Tipo, facciamo l'esempio di WhatsApp. Se io, che sono un uomo, comunico frequentissimamente con due donne, WhatsApp può sapere che io forse ho una moglie e un amante. Se non comunichiamo mentre siamo vicini e WhatsApp sa dove ci troviamo, ne dedurrà che comunque non ci sono problemi. Se non comunichiamo mentre siamo lontani centinaia di chilometri, potrebbe sapere che forse io ho un problema con mia moglie. Quindi questi sono metadati che mi dicono, quello non sappiamo che cosa ti sei detto, però sappiamo che tu hai parlato con XY e tu sei ZK. Vuol dire. WhatsApp, ad esempio, ha tutte le nostre rubriche del telefono, sa chi sono i nostri contatti. Certo, quindi anche questi dati, diciamo, anche nel vostro caso, un magistrato che indaga potrebbe utilizzare questi metadati per fare un po' di correlazione, dire ma guarda, tutti i giorni questo chiama quella persona, non sappiamo quello che si dicono. È possibile, dipende da cosa sceglie il cliente. Il server è sotto il controllo del cliente, lui può decidere se vuole conservare i metadati per un anno, se vuole conservarli solo per 3 giorni perché deve fare supporto agli utenti a fronte di qualche problema, certo, o se non li vuole conservare per nulla. Parliamo anche di costi. Sì. Giusto per avere un'idea, dacci un ordine di grandezza, quanto costano questi servizi? Allora, questi servizi costano alcune decine di euro al mese per utente. Per utente, quindi se io voglio abilitare la comunicazione cifrata e protetta tra due utenti, parliamo di alcune decine di euro. A seconda poi dei casi, parliamo comunque di qualche centinaio di euro l'anno. Ecco, sì. Quindi non cifre impossibili. No, la consapevolezza e la sensibilità delle aziende in Italia e in altri paesi, perché voi naturalmente non vendete, siete italiani, ma non vendete solo in Italia. Anzi, di più all'estero. Ah, ecco. Ecco, in generale è cresciuta o siamo ancora difficile? La consapevolezza è molto cresciuta. In Italia c'è un atteggiamento culturale un po' deviato, per cui ancora spesso troviamo l'atteggiamento di ma io non ho niente da nascondere. Qui non è una questione di nascondere, è questione di privacy, perché nessuno di noi metterebbe una webcam nel suo bagno di casa. Certo, c'è chi dice, visto che non hai niente da nascondere, dammi la password della tua email. Assolutamente, e poi dopo vediamo. Fammi vedere i tuoi messaggi WhatsApp. Sì. Certo, e quindi questo è molto, soprattutto in Italia. In Italia è un atteggiamento ancora abbastanza forte. Sta cambiando, Sì, e all'estero? All'estero invece c'è più consapevolezza. Io ho delle informazioni che sono di valore e legittimamente le proteggo, esattamente come utilizzo la cifratura full disk encryption sul mio PC per proteggere i documenti, esattamente come quando mi collego all'azienda mentre sono fuori utilizzo una connessione VPN per proteggerla. Questo mercato è cresciuto però negli ultimi anni. È cresciuto molto. È cresciuto molto. Sì. Soprattutto dopo le rivelazioni dello spionaggio di massa che è stato fatto dall'NSA. Certo. Ricordiamo che Edward Snowden ha parlato dell'NSA perché lui lavorava per l'NSA, ma sappiamo benissimo, tutti. Non abbiamo delle informazioni precise come quelle di Snowden, ma sappiamo benissimo che servizi segreti di tutti i paesi, Cina, Russia, eccetera, eccetera, fanno la stessa cosa, anzi forse peggio. Sicuramente. Però si è parlato molto dell'NSA, sembrano che i cattivi sono solo... No, assolutamente, tutti spiano tutti perché avere informazioni dà un vantaggio competitivo. Certo, e lo ricordiamo... ed è l'ambito nel quale voi vi muovete, soprattutto informazioni relative alle aziende, know-how tecnologico per essere competitivi sui mercati. Certo, assolutamente. Certo. E com'è cambiato questo mercato però negli ultimi anni? Ah sì, sicuramente c'è un problema legato al fatto che il mercato si è molto allargato, sono entrati nuovi concorrenti e i prezzi sono scesi. Questo fa sì che inevitabilmente anche la percezione del mercato sia variata e quindi appaiono strumenti che vengono spacciati come di sicurezza elevata, ma in realtà non ce l'hanno. Questo fa abbassare il prezzo medio che i clienti sono disposti a pagare, mettendo in difficoltà le aziende che invece questo mestiere lo fanno con grande serietà, perché ricordiamo che sviluppare un prodotto che ha la sicurezza by design costa almeno 2-3 volte di più di un prodotto che non ce l'ha. Il mercato potenzialmente spesso non è disposto a pagare quel sovrapprezzo, a meno che si tratti di un mercato che è qualificato e che quindi è in grado di valutare veramente, seriamente la differenza fra i prodotti. Questa è una delle ragioni per cui noi ci rivolgiamo alla large enterprise. Lì troviamo degli interlocutori qualificati che sono in grado di discriminare strumenti professionali ben fatti da quelli invece che sono apparentemente sicuri. Certo, se io sono ignorante in materia, ovviamente dico vabbè, ma questo mi costa 10, quello mi costa 1000 e compro quello da 10, certo, perché non sono in grado di valutare. Poi sempre il prezzo descrive la bontà del prodotto, però nella mia ignoranza io potrei scegliere una cassaforte da 1 centimetro di spessore invece che di mezzo perché mi sembra più sicura, salvo dimenticare che chi me l'ha installata si è tenuta una copia della chiave. chiudiamo il capitolo dedicato alla sicurezza, alla cifratura. Queste cose mi piacciono molto, sono molto interessanti. Torneremo nelle prossime settimane a parlare di security. Adesso invece parliamo di smartphone. Di fatto parliamo quasi sempre di smartphone, perché in un modo o nell'altro la nostra vita passa attraverso gli smartphone. In Italia ne vengono venduti circa 20 milioni ogni anno, 1,5 miliardi in tutto il mondo. Numeri pazzeschi, anche se le vendite stanno un po' rallentando, mica il mercato può crescere a due cifre sempre all'infinito, e devo dire anche l'interesse verso gli smartphone, inteso come richiesta di informazioni sugli smartphone, forse un po' scemato rispetto ai primi anni. Nonostante ciò, questo è ancora oggi nell'elettronica di consumo il prodotto più venduto, e dicono i rivenditori, per fortuna che ci sono gli smartphone, però sicuramente l'attenzione anche proprio a livello tecnologico di scenario si sta spostando verso altri mondi, ad esempio verso le automobili. E tra poco parleremo di automobili. Alcuni dicono che l'auto è il nuovo smartphone, oppure dashboard is the new smartphone, cioè il cruscotto dell'automobile è il nuovo smartphone. Però adesso parliamo di smartphone semplicemente. Allora, dopo Samsung ed Apple, anche Huawei ha tenuto il proprio evento di primavera per presentare il nuovo P9, uno smartphone top di gamma presentato in due dimensioni, una da 5,2 pollici, l'altra da 5,5 pollici. È un prodotto molto curato nel design e anche nei materiali, e una tra le cose che spiccano subito è che praticamente non c'è la cornice, e quindi questi 5,2 pollici si possono paragonare a smartphone che invece hanno schermi più piccolini, ma poi hanno la cornice, quindi occupano anche spazio nella cornice. Questo è uno smartphone su cui punta molto Huawei, che sta crescendo come quote di mercato in tutto il mondo. Sicuramente fino a pochi mesi o anni fa non veniva nemmeno tenuta in considerazione una presentazione di Huawei, perché aveva quote di mercato molto, molto piccole. L'azienda è cresciuta, è un'azienda cinese, un colosso gigantesco, è cresciuta molto negli ultimi mesi, e oggi pensate che a livello mondiale è numero 3 dopo Samsung ed Apple. Certo, con ancora una distanza molto ampia da colmare, con anche altri competitor cinesi, e soprattutto in Asia c'è una competizione molto forte sui prezzi anche con player locali. Comunque sicuramente una crescita da tenere sott'occhio. Questo è uno smartphone che punta in particolare sulla qualità della fotocamera, e parlando di questo smartphone di fatto stiamo parlando di un trend generale del mercato. Alcune di queste cose potremmo, c'è chi dice, le vedremo anche sul nuovo iPhone. Comunque ha due fotocamere posteriori, di solito gli smartphone hanno due fotocamere, una anteriore per i selfie, l'altra posteriore, in questo caso ne ha tre, potremmo dire. Ha due fotocamere che servono sostanzialmente per una migliore definizione dei colori e anche un maggiore contrasto anche in situazioni di scarsa illuminazione. Allora, in passato già altri produttori si erano cimentati con smartphone dalla doppia fotocamera, in modo particolare HTC e anche LG con il recente G5, dove la doppia fotocamera serve per aumentare l'angolo di visione, fare quindi foto panoramiche, e anche HTC utilizzava questa doppia videocamera per altre funzioni. Huawei ha invece lavorato con i tecnici della tedesca Leica, molto famosa per le fotocamere reflex di alta qualità professionali. Allora, ha lavorato con i tecnici tedeschi per migliorare la qualità dell'immagine e migliorare sia le foto in bianco e nero, ma anche e soprattutto la dinamica di quelle a colori. Quindi si migliorano le fotografie in quelle situazioni in cui c'è poca luminosità o c'è molto contrasto, due fonti, che ne so, una molto luminosa e poca luce in altre parti dell'immagine. Di questo abbiamo parlato con Daniele De Grandis, che è Executive Director di Huawei in Italia, partendo proprio da questa considerazione: perché l'immagine è così importante, perché si punta sull'immagine per uno smartphone. Beh, lo dicono ovviamente le ricerche di mercato, soprattutto in Italia siamo un popolo che ama condividere, no, le proprie emozioni, e quindi siamo anche un popolo, una tipologia di utenti a cui piace scattare il momento, cogliere l'attimo e condividerlo con i nostri amici. Quindi l'Italia è anche un mercato dove l'uso dello smartphone come strumento fotografico è molto più evoluto rispetto ad altre nazioni. Se guardiamo al mercato generale, quindi non solo telefoni di fascia alta, come si dice in gergo flagship, quindi guardiamo anche tutta l'altra fascia di telefoni, come si sta muovendo il mercato e dove ottenete maggiori soddisfazioni? Beh, innanzitutto il mercato degli smartphone in Italia continua a crescere anno su anno, e questo sicuramente è un dato molto confortante se andiamo a guardare la totalità del mondo dell'elettronica di consumo. E, cresce insieme allo smartphone anche la fascia medio-alta, quindi crescono quelle fasce dove effettivamente il consumatore finale può trovare prodotti che da un punto di vista di innovazione, di qualità e di tecnologia possano, diciamo, racchiudere contenuti molto importanti. Quindi i prodotti diventano sempre più sofisticati da un punto di vista tecnologico, ma sempre più meglio disegnati. Quindi sicuramente tutta questa competizione va a vantaggio dell'utente finale. Quindi gli utenti continuano a spendere un sacco di soldi in telefoni? Beh, soprattutto in Italia sappiamo quanto per noi lo smartphone è diventato uno strumento essenziale nella nostra quotidianità. Quindi sì, c'è disponibilità ad investire non tanto per spendere, ma oggi l'utente dello smartphone è anche un utente evoluto, che non guarda solamente più al marchio che c'è dietro, ma all'effettiva poi funzionalità, affidabilità e qualità costruttiva. Il vostro grande capo, il capo mondiale di Huawei, ha detto: vogliamo diventare i numeri uno nella telefonia. Oggi, se guardiamo al mercato mondiale, siete numeri tre, e quindi avete fatto una crescita molto, molto elevata. Puntate soprattutto a Samsung, perché se parliamo di mondo Android, sicuramente quello immagino sia uno degli obiettivi. Puntiamo soprattutto a raggiungere chi ci precede. L'Italia, ad esempio, è un punto di eccellenza per Huawei a livello mondiale. L'Italia è, dopo la Cina, il secondo mercato al mondo per quello che riguarda il mercato degli smartphone. In Italia stiamo facendo bene, perché abbiamo raggiunto la seconda posizione sul mercato in termini di volumi di prodotti venduti. Vediamo che questa posizione tende a consolidarsi mese dopo mese, quindi effettivamente sempre più consumatori premiano la nostra proposizione di prodotto, quindi significa che Huawei è particolarmente di successo in Italia, perché disegna, costruisce e commercializza prodotti pensati per l'utente italiano. Secondo mercato dopo la Cina, sembra sorprendente per quanto vi riguarda, noi in generale, giusto? Sì, è stata quella del 2015 una performance straordinaria, che ci ha visto crescere sì in tutto il mondo, ma in Italia siamo cresciuti, diciamo, sopra le aspettative, diventando in Europa il mercato di riferimento, ma addirittura, diciamo, acquisendo anche questo ruolo a livello globale. Adesso parliamo di automobili, quindi se è vero che l'automobile è il nuovo smartphone, non a caso alcuni hanno sottolineato che recentemente non si vedono più file davanti ai negozi di Apple quando vengono presentati i nuovi prodotti, ma si è vista una fila in alcuni negozi di Tesla quando è stata presentata la Model 3, la nuova Tesla, la scorsa settimana. Dicevo, se è vero che c'è molta attenzione e vedremo la tecnologia esplodere sulle automobili nei prossimi anni, lì va posta attenzione. Nel giro di pochi anni, già oggi la tecnologia e soprattutto la sensoristica ha cambiato le auto grazie a sistemi di assistenza alla guida sempre più evoluti e anche alla connettività di bordo, a sistemi di infotainment sempre più presenti e sofisticati. Allora, in questi giorni è arrivata in Italia, viene presentata al mercato la nuova Mercedes classe E, che è sicuramente un'auto non popolare di fascia alta, ma le dotazioni che sono disponibili a bordo di questa automobile ci danno un'idea delle tecnologie che oggi sono disponibili sul mercato, e quindi è un buon concentrato di tecnologie disponibili già oggi in molti altri modelli anche di fascia più bassa, ma su modelli che magari arriveranno nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Va detto che sul mercato ci sono altre auto che fanno cose simili, quindi il concentrato di tecnologia della classe E è emblematico del livello al quale siamo arrivati, ma alcune delle soluzioni le abbiamo già viste, però mi sembra interessante tutte assieme, raccontate tutte assieme da Eugenio Blasetti di Mercedes-Benz Italia. Intanto, se vogliamo parlare di innovazioni, questa macchina ha alcuni elementi che sono interessanti, e uno è questa macchina può parcheggiare autonomamente, nel senso io comando dallo smartphone la macchina e esco fuori dall'auto. Se ho per esempio uno spazio molto ristretto in cui io non riuscirei ad uscire dalla portiera una volta che ho infilato la macchina, io esco dalla macchina, avvio un'applicazione sullo smartphone e semplicemente con la rotazione dell'indice io sono in grado di mettere la macchina, di farla parcheggiare o di farla riuscire. Cioè guido io la macchina di fatto. Guido io la macchina da fuori, la macchina è come se diventa telecomandata. Un altro elemento che non ha nessuno è il sorpasso automatico. Io sono in autostrada, semplicemente attivo per più di 2 secondi la freccia sinistra, la macchina da sola effettua la manovra di sorpasso, naturalmente guardando con grande attenzione che non ci sia nessuno che stia sopraggiungendo, e poi si riallinea comodamente dove ha effettuato il sorpasso. Tutti questi sistemi già esistono e già ci sono anche su altre Mercedes, ma lo sviluppo a cui siamo arrivati è incredibile, perché questa è una macchina che è in grado di effettuare, hai un sistema che è attivo da 7 km orari fino a 250 km orari, ma è in grado di frenare in maniera autonoma nel caso che non ci sia la possibilità di scartare l'ostacolo a destra o a sinistra, che sia un ostacolo fermo, che sia un pedone, ha la possibilità di evitare un incidente entro 100 km orari. Allora, la cosa più importante, questa macchina esattamente come la vedete qui fuori, quindi con la produzione di serie, semplicemente con delle modifiche software che eliminano dei blocchi, questa macchina è stata registrata in Nevada per poter fare la sperimentazione di guida autonoma, quindi questa macchina con questa tecnologia già può guidare da sola. La legge oggi non permette, diciamo, che una macchina possa essere guidata togliendo le mani dal volante, ma questa macchina è già in grado di farlo e sì, già sta lavorando in questo senso. Sì, ricordiamo che attualmente tutte queste automobili, quando io tolgo le mani dal volante, mi dicono qualche cosa, giusto? Certo, queste macchine pretendono che effettivamente ci sia praticamente una persona alla guida e sia cosciente, perché questa è anche, voglio dire, la filosofia. La cosa importante è che, ad esempio, io sono nel traffico, sono nella marcia stop and go, è una classica situazione di grande fastidio. La macchina automaticamente parte, si ferma e riparte se la fermata è di 30 secondi. Segue la coda da sola. Segue la coda da sola. Però è chiaro, pretende che praticamente ci sia un intervento della guida, pretende che ci siano le mani sul volante. Quindi nel caso che percepisca la macchina che l'utente non sta più toccando il volante e ha la sensazione che abbia avuto un malore, la macchina automaticamente accosta, rallenta e mette le 4 frecce. Senta, queste tecnologie sono disponibili per tutti quelli che comprano questo tipo di auto o sono tutti optional? Allora, molte delle tecnologie sono standard, altre delle tecnologie, queste più legate alla guida autonoma, sono optional. E sono optional, mi sembra di capire che ci sono anche degli abbonamenti, è vero? Per alcune funzioni c'è un acquisto iniziale. Le macchine sono dotate di una tecnologia che gli consente di effettuare queste manovre per un arco di 3 anni e poi praticamente c'è da pagare un supplemento aggiuntivo. Stiamo parlando di servizi di fatto. Stiamo parlando di servizi, però ad esempio parliamo di tecnologia, di connettività. Tutte le classi E e tutte le Mercedes sono tutte connesse con una connessione dati e voce gratuita, integrata nella macchina, di serie su tutte le macchine. E questo praticamente fa sì che c'è una connessione con la centrale operativa che sa esattamente quello che sta succedendo alla macchina. Se io ho un incidente e io non sono in grado di chiamare soccorsi, la macchina se ne accorge. Da Stoccarda mi mandano una chiamata sulla macchina e se io non rispondo mandano autonomamente i soccorsi in quel luogo. E la persona che mi chiama è una persona che parla italiano, perché attraverso la lingua del navigatore sanno che c'è una persona italiana anche se sta in Svezia. Senta, questa è una prospettiva interessante, cioè quella di dei servizi a bordo dell'automobile, con alcuni scenari anche strani, perché magari io sono abituato a fare certe cose, non pago più l'abbonamento e queste cose la macchina non le fa più. Che tipo di altri servizi ci sono o ci saranno? Questa macchina c'è un'interazione con gli smartphone sia del mondo Android che del mondo Apple, direi praticamente nativa, quindi con gli smartphone è possibile gestire la macchina in maniera a distanza, in maniera tranquilla. Io posso aprirla, chiuderla, posso sapere esattamente dov'è la macchina, quindi se l'ho data a mio figlio e mi ha detto che va in un posto, posso essere in grado di sapere se effettivamente è esattamente in quel posto, posso sapere la pressione dei pneumatici, posso sapere quanto carburante c'è dentro la macchina, e questo è standard nelle automobili. Due domande. Beh, intanto una considerazione: stiamo parlando di un'automobile e stiamo parlando di cose che normalmente non venivano associate ad un'automobile. Di solito si parlava del motore, del design, eccetera eccetera. A proposito di tecnologia, cose che abbiamo già visto in altri brand, le stanno proponendo, però sicuramente fanno impressione. Il cruscotto non è più un cruscotto. No, in realtà è come se fosse un grandissimo tablet, perché è di dimensioni rettangolari, 31 centimetri, con una parte centrale che è legata e che simula con una strumentazione virtuale, che è possibile addirittura cambiare come se fosse un quadrante di un orologio, a seconda praticamente dei miei gusti. E poi la parte destra è legata alla visualizzazione del navigatore o di un film o della musica che sto ascoltando, che sto scaricando da internet. E quindi è un dispositivo che è molto legato a quella che praticamente oggi è l'evoluzione del mercato dell'elettronica. Però una cosa importante: filosoficamente Mercedes non utilizza il touch, che sarebbe una cosa semplicissima da fare, ma in realtà gli schermi non sono touch, ma nel volante ci sono due punti in cui praticamente è possibile gestire tutto quello che appare sullo schermo, perché filosoficamente l'utente non deve abbandonare il volante e deve guardare la strada per non distrarsi mai. Connettività, abbiamo parlato di connettività in generale, c'è anche una connessione, non so se chiamarla così, tra auto e auto. Ovviamente devono essere due classe E. E questa è un'altra rivoluzione che ha voluto fortemente Mercedes. Mercedes è la prima, la classe E, la nuova macchina ad utilizzare questo protocollo che si chiama Car2X, ma molti altri costruttori sono entrati in questo protocollo e anche alcune nazioni, alcune municipalità saranno interessate da questo concetto. Che cosa significa? Che le macchine saranno tutte connesse fra di loro. Oggi soltanto le classi E si parleranno. Questo non significa che gli occupanti si parlano, ma le macchine si trasmettono tutte le informazioni che hanno, e questo è fondamentale per emergenza. Pensate a una strada in cui praticamente improvvisamente c'è una lastra di ghiaccio. Quindi le macchine che sono avanti automaticamente trasmettono questa informazione alle macchine che stanno attorno, o in autostrada, che magari c'è un incidente, cioè si crea un'improvvisa fila immediatamente dopo una curva, caso pericolosissimo. Questo non sarà più un problema nel momento in cui saranno molte auto che avranno questa tecnologia. Il passo successivo mi sembra di capire allora che Car2X vuol dire anche infrastruttura, città, esatto. Smart city, eccetera. Esatto, ci saranno dei sistemi che monitoreranno il traffico al centro, sui semafori ad esempio. Questa è la visione, e questo è un progetto che praticamente verrà sposato sicuramente in anticipo dalla Germania, ma immaginiamo che anche gli altri paesi europei sposeranno questa logica. Concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per i vostri messaggi, potete continuare a inviarli a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, continuiamo anche a raccogliere a livello statistico di pura curiosità, e non è che ci andiamo a fare delle indagini di mercato particolari, anche perché le leggo solo io. Continuate a scrivere i vostri messaggi per raccontarmi come ascoltate 2024, se lo fate come molti fanno quando fate sport, o al, direi al secondo posto in classifica per nello spostamento casa-lavoro, lavoro-casa, o anche altre località tipo dove si studia, che ci sono anche molti studenti. Bene, ci risentiamo la prossima settimana con altre tecnologie da raccontare e speriamo anche alcune novità e alcune notizie.